Siviglia, sfato insieme a Sandrocino e il resto della famiglia. Bombe, bamba, trippe e pasticca, non valgono le sensazioni che mi dà la ciusca. Mangia master, me ne fotto di magliette e poster. Quella foglia è meglio metterla dentro due smoking grosse. Erba pure fumo, hashish allo stato puro, serial killer di cartine, filtri e Malboro, sto sfatto. E spesso lo manifesto, mi saluti per la strada però non ti riconosco. Sbatto addosso a tutto quello che non sta fermo. Perdo l'equilibrio, non possiedo più un cervello. Qua l'inferno, ma come ti posso dire, è troppo bello se si passa stasera a fumare. Mi chiudo e per me è perfettamente normale. Come il caffè che dopo pranzo non fa male, fa bene. È medicina naturale, cura il mal di testa, il mal di pancia e il mal di mare. Però purtroppo resterà sempre illegale. Sicuro come noi restiamo sfatti e il fumo sale. Per le vie del centro sfatti, completamente distrutti. Alle quattro assieme ai gatti, totalmente spenti. Per le vie del centro sfatti, completamente distrutti. Alle quattro assieme ai gatti, totalmente spenti. Sto sfatto, sfatto. Cos'è che ho fatto? In compagnia dei miei compari sono stato fumando fumo passivo, io sono andato. Che hai detto? Non parlarmi adesso che ho il cervello spento. Vedo gente intorno a me che ride, che rulla, che urla, che si burla di me vive. Ma che gente sfatta, un oggettino marrone, un foglietto di carta, un po' di tabacco e la cosa è bella e fatta. Per scelta personale non usufruisco di sostanze, per masoggini personali sono circostanze di vita. E che vita, si sa, tutto è regolare, prova a interpretare quello che vuole l'amico già sfatto, pronto ad acquistare, che sia città oppure al mare. Non sia mai una sigaretta quella che fate girare, ma tanto state sfatti che ve lo dico a fare. Per le vie del centro sfatti, completamente distrutti. Alle quattro assieme ai gatti, totalmente spunti. Per le vie del centro sfatti, completamente distrutti. Alle quattro assieme ai gatti, totalmente spunti. Pronto? Sì. Oh, oh. Ciao. Grazie al telefono. Dove stai? Al parco. Ho capito, come stai? Sto bene. Ah, stai bene? Sì, sì. Allora muovi al parco. Via, via. Sto sfatto, me vedi? Abbassa i vetri, attento a gini in macchina, in moto o a piedi. So sempre io quello che smanio e che gli rode il culo. Se a fine serata becchi per cui sei da un garciulo, non mi curo del biulo che sulla panca fa il duro. Io ti assicuro vivo in pace fottendomene di loro. Compio gesta sfatte tra le fratte del parco, tra le facce sterrefatte di Maso, Massi e Marco. Viazzi è sfranto, a un certo punto delle luci colore blu, due tizi con le facce truci ci puntano il faro negli occhi e ci chiedono aiosa. Raga, sentite a me, tenete qualche cosa. Ma no, ma si figuri a gente, non ci abbiamo niente, diceva Maso mentre gli dava la sua patente. Ma mentre frugava nella sua tasca, che svolta, gli casca una pallina da 1,50 m. Ah, e credi? Niente, cazzo. Faccio un Per le vie del centro sfatti, completamente distrutti. Alle quattro assieme ai gatti, totalmente spunti. Per le vie del centro sfatti, completamente distrutti. Alle quattro assieme ai gatti, totalmente spunti. Ma la chitarra elettrica, Mozzi! Ecco, raga, poco te la gamba! Ma i microfoni, Gino, Maso e Piazzi! Spot. Spot. No.